Occorrerebbe una giornata per leggere un po' in profondità tutto questo brano del Vangelo. Due o tre note prima di entrare nel merito di una riflessione. In fondo sentiamo il richiamo delle origini. Per trovare una identità genuina nei fatti, negli eventi, proprio ciò che viene maturando o scoperto, solo appunto se entriamo nei fatti, negli eventi, nelle cose accadute e che riguardano naturalmente Gesù Cristo e coloro che stanno cercando di capire. Quando diciamo, rifarsi alle origini, non è che intendo guardare di lontano, le cose lontane, ma sono le origini di adesso. Questo udire pace a voi non è che fu detta, è detta. E non sono parole di Galateo. Buongiorno, buonasera, come va in famiglia? Vabbè. Ci possiamo porre e proporci di riflettere a partire dalla cornice del fatto, la città di Gerusalemme in subbuglio, gli apostoli racchiusi insieme con le donne e la madre, dentro in una stanza, notate, per paura dei giudei. Allora propongo tre situazioni, tre scenari, e tutte e tre caratterizzati da un prima e un poi. Un primo scenario, dalla paura al coraggio della libertà. La paura nasceva perché con la morte di Gesù tutto sembrava finito. Restava solo l'attesa di essere trattati come era stato trattato Gesù. Gesù si presenta in mezzo a loro come se non fosse morto. È vivo, mostra i segni e dice pace, che in uno dei significati originari, un significato primario, dice vita, amore alla vita. Allora alla paura si sostituisce che cosa? La gioia. Si rallegrano per una vita non più ferita, non più bloccata, non più impotente, non più impoverita. Che significato ha per me, per noi? Questa pace rivolta a me. Quello che mi è venuto da riflettere è questo. Uso una parola che non amo molto pronunciare, a meno che sia riempita di eventi, di fatti, di esperienze. È la parola un po' così, nebulosa dell'amore. Ma ci intendiamo. Nell'amore non ci può essere paura. Colui che ha paura mortifica la sua capacità di amare. E qui entrerebbe il discorso del perdono. Colui che ha paura mortifica la sua capacità di amare. Questo è vero quando si fa una carezza, quando si dà un consiglio, quando si sta in ascolto. È vero quando si condivide una situazione dolorosa, quando così in un momento particolare, in un'esperienza particolare, si è gratificati, c'è della gioia. Quando si esprime l'amore coniugale, quando si pronunciano parole pesanti, perché sono denunce. È vero quando informati si partecipa alle opposizioni perché le situazioni geopolitiche si risolva non con la prepotenza della forza armata, ma con il dialogo, con l'ascolto reciproco. Non è un elenco così. È che dalla paura, e la paura cosa fa? Fa chiudere gli spazi mentali, gli spazi emozionali, gli spazi motivazionali. Uscire nell'amore, e quindi agire nell'amore, fa perdere la paura, perfino delle scelte. Vabbè, un secondo scenario di un prima e un poi. Le porte chiuse. Da situazione di difesa all'uscita, alla partenza, all'andare. E andare in tutte le direzioni. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Cioè, da questo momento non vivete più solo per voi stessi, per salvare i propri privilegi, i propri, così via. Siete rivolti verso gli altri, i discepoli, la Chiesa non vive più per se stessa, ma per gli altri. Faccio una considerazione per me e per voi. Il luogo di incontro con Cristo, assente in questa fase di attesa della sua venuta, è l'umano, è l'uomo, inteso uomo-donna naturalmente. L'incarico che Cristo lascia a coloro che lo vogliono seguire, i suoi discepoli, per questo tempo, è di cercare, di stare, di essere insieme agli uomini. Notate, non li manda a compiere gesti religiosi. a meno che si intenda, ponete dei segni, siate dei testimoni. Non so se i due papi di stamattina in San Pietro raccoglieranno questo messaggio o manderanno questo messaggio, mi auguro di sì, tra virgolette o tra parentesi, che io debba sentire che sono soprattutto i laici e qualcheduno semicredente, non praticante, no? Siano quelli che oltrepassano, mettono in discussione, lanciano messaggi per capire meglio chi erano queste personalità, se no che miseria sento in giro. Santini, Madonnine, Pitturine, vabbè, tutto va bene, però è un insulto, secondo me. Comunque non li manda a compiere gesti religiosi. È il compito, il ministero, il servizio che il credente accetta di compiere non è suo, è un dono. Lo dico per me prete, lo dico per chi è genitore, per chi è educatore, per chi comunque ha una relazione dove manda a dir qualcosa di nuovo. Notate ancora, quelli che hanno accettato questa missione diventano una comunità. La comunità che si incontra, bellissimo, tra il Tempio e la casa. Due punti di riferimento interessanti. Si va al Tempio, però ci si riunisce nella casa dell'uomo. Non in uno spazio sacro. Qualcuno dice che questo Papa attuale non pone segni sacri. È un po' un furbacchione. No? Vabbè, sappiamo da che parte viene una cosa così. La logica della vicenda della risurrezione fece sì che questi cristiani fossero esclusi dal Tempio e si trovassero bene in casa, nella casa. Allora cosa diventa la Chiesa? Senza cessare di essere casa. E da ultimo, lo scenario del prima e il poi. I discepoli non restarono al chiuso, dove non succedeva niente di nuovo. La situazione si fa nuova. Ricevete lo Spirito Santo, cioè lo Spirito che fa nuove le cose. Le cose. Le accoglienze, gli ascolti, i rifiuti, gli accostamenti, i gesti educativi. Sono doni dello Spirito, La forza dello stile nuovo di vivere le relazioni. Adesso io mi fermo qui perché bisognerebbe aprire lo scenario del Tommaso, una figura molto vicina, almeno io la sento vicina. Se non tocco, se non capisco, non credo. E Gesù mi dice, ma va, da valore, che stai dicendo? Cosa vuoi scoprire? Anche se vado al cinema, come lo chiamano, Transcendence, adesso è fuori, tutti corrono a vedere il film Transcendence. Non si capisce. Bisogna proprio abbandonarsi. Scusate il risottino, adesso c'è. Allora diciamo gloria a Dio. Pace in terra agli uomini.